La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Non avete pazienza, non avete pazienza. Un attimo, datemi il tempo. Un giorno vi dirò chi canta la sigla, vi dirò che sigla è, che canzone è, da dove arriva. Intanto già qualcosa potete leggere sulla nostra bacheca Facebook dedicata proprio alla bella estate, che è questo programma. Io sono Tommaso Labranca e oggi voglio parlarvi di canzoni. Io sono stonato, questo si sa. Io sono asociale, questo dovreste averlo capito. Mettete insieme le due cose e avrete un'estate muta, la mia naturalmente, non la vostra. La vostra deve essere canterina e dovete raccontarmi cosa avete cantato, come avete cantato, con chi avete cantato, ma soprattutto facciamo una piccola classifica. All'800 24 00 24 fatemi sapere qual è secondo voi la canzone perfetta da pullman, la canzone perfetta da cantare intorno al falò. Per esempio, mi hanno detto, perché io non l'ho mai fatto, non sono mai stato intorno a un falò a cantare. Una volta mi hanno invitato, ma poi mi ha mandato via, forse perché avevo una tannica di benzina, avranno avuto paura, non lo so. Ma mi hanno dicono che la canzone ideale da cantare intorno al falò è questa. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna, dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai. Ma qualcuno arriva a questo punto? Vi ricordate tutte le parole della canzone di Battisti? Oppure dopo le treccine e le calzette rosse vi perdete nel nulla e cominciate a cantare Mare Nero, Mare Nero, Mare Nero, Mare Nero? Non lo so. Ma si canta ancora intorno al falò perché la tecnologia sta cambiando tutto, ma non oggi. Oggi sul pullman, intorno al falò, sarete tutti lì con l'iPod, le cuffiette, belli isolati, come fra l'altro piace a me, naturalmente vi apprezzo molto quando fate così. Ma già negli anni 60 la tecnologia era invasiva. È stata l'unica volta in cui ho cantato. Non so come mai a Milano apparvero delle cabine in cui voi entravate, pagavate non so più quanto, e veniva fuori un 45 giri. Veniva inciso al momento, altro che i CD fatti subito fuori dai concerti come hanno fatto Elio e Vasco. Sono vecchi, sono fuori moda. Si faceva già negli anni 60. Mia mamma mi trascinò in questa cabina e mi impose di cantare, ma io mi vergognavo perché sono molto timido, anche se magari a volte non lo pensate, sono molto timido e non riuscivo a cantare. Avevamo un minuto di tempo e questo disco che venne fuori poi rimase storico perché era soltanto fatto di miei no, non lo voglio fare e di insulti che mia mamma poi usava per concludere questa registrazione in cui non cantai assolutamente niente. Passarono gli anni, passarono i 70, gli 80, i 90 e dal Giappone arrivò una strana moda: cantare leggendo le parole sul video. Stasera voglio cantare ma le bionde trecce di notte. Lasciatemi cantare. Questione di feeling. Bravissima, è stata molto brava. Questa piccolina, come si chiama? Elisa, piccolina, è stata molto brava, grazie. Tu vai a scuola qui, eh? Fai le medie? No, le ho già finite. Sì. Quanti anni hai? Possiamo chiederti l'età? Devo fare 15 anni, però sono nata in dicembre, quello, no? Ah, dicembre, allora, capito. Io a 15 anni ero ancora all'asilo. Benissimo. Queste sono testimonianze storiche. Fiorello al karaoke, un programma cominciato veramente in sordina, stavano per chiuderlo, poi improvvisamente ebbe un successo incredibile e andò avanti per anni. Anche poi, naturalmente, quelli che vennero dopo lo seppellirono, ma fa niente. La ragazzina piccolina di 15 anni, appena compiuta a dicembre, che si chiamava Elisa, poi è diventata Elisa, la cantante che conosciamo tutti, ha vinto anche un Sanremo, fra l'altro è anche una delle mie preferite, so che non vi interessa, ma ve lo dico. La ragazza con molta grinta che invece chiudeva la clip era l'attrice Laura Chiatti. Ha cominciato così, lei ha la passione per la musica, non era ancora famosa e andò al karaoke. E nel 90 si cantava così. Oggi i cantanti escono più che altro dai talent show, soprattutto quelli invernali, però d'estate fanno le selezioni. Anni fa c'erano anche molti concorsi estivi per le cantanti, ma anni fa le canzoni estive ce le ricordavamo di più. Parliamone con una protagonista, della musica italiana, Marcella Bella. Buongiorno Marcella. Buongiorno, eccomi qua. Ma grazie, grazie per essere con noi alla bella estate. Marcella, senti, ho voluto te stamattina, anzi ti dico stamattina, questo pomeriggio, sono le 16:11, ma mi sono completamente confuso. Volevo te perché per me le canzoni di Marcella Bella sono state quelle più estive, anche se in realtà tu non hai mai parlato di estate nelle tue canzoni. Ma forse sì, in una, il Rio de Janeiro forse. Ah, ma quella ne parleremo in un'altra trasmissione perché comunque ci darà adito a far partire altri temi. Ma in tutte quelle che ascoltavamo in estate, per esempio, anche se erano molto vive, molto vivaci, non c'era mai il discorso estivo, erano sempre dei discorsi... No, non erano legate all'estate, ma legate a delle storie d'amore. Sì, a storie d'amore ma molto particolari, perché il personaggio che Marcella interpreta in quelle canzoni in realtà anticipa di molto, per me, poi puoi correggermi, certi personaggi alla Bridget Jones o alla Carrie Bradshaw, cioè queste ragazze molto metropolitane, urbane, cioè quando cantava di questi supermercati immensi, di lui che non te le... Ricordi, supermercati immensi per due. Ma io sono l'esegeta di Marcella Bella. Angolo di umanità. Ma tu d'estate canti di più che in inverno? Io quando facevo i concerti cantavo molto più in estate, certo, perché sì, andavo in giro nelle piazze, le città, nei paesini, a Riccione, a Rimini, e chiaro, si lavorava di più d'estate, quindi cantavo di più d'estate, ma da quando non faccio più concerti, d'estate canto solo per gli amici, per me stessa. Quando sei in casa, quando in casa Marcella canta? Io canto, sì, perché mi sono creata tutto un mio impianto, una specie di karaoke di lusso, diciamo così, nel senso karaoke che domestico. Fatto ad alta fedeltà, fatto bene, allora io metto tutte le basi e mi diverte tanto cantare le canzoni degli altri. Ah, non canti le tue? Qualche volta sì, perché ci sono gli amici, quando me li chiedono gli amici, però io le mie le ho cantate talmente per tanti anni che... Quando mi devo divertire, diciamo così, canto altre canzoni, canto dei blues, canto canzoni cantate da altri per vedere come le avrei cantate io, se fossero state mie. Tu hai partecipato a 14 festival bar. Li ho contati tutti, quindi... ricordo. Per 14 anni. Me ne ricordo uno in particolare che ero vestita... da Moschino, che era il suo vestito, diciamo, simbolo della sua maison. Avevo questo vestito rosso di pelle, sì, e un cappello da cowboy, cantavo Nel mio cielo puro. A questo ti è rimasto impresso? Sì, perché dopo, a distanza di anni, ho visto questo abito pazzesco. Hai detto, perché l'ho fatto? Ti faccio sentire brevemente quello che per me è il più forte ricordo di Marcella d'estate. Eccolo qua, ecco qui la ragazza che aspetta. Questo proprio ti fa pensare all'estate, questo pezzo. Questo, ma forse perché è un mio ricordo personale. Intanto era un disco molto più avanti degli altri, perché aveva un ritmo disco che nessuno faceva in Italia. Poi mi sembra che... No, e soprattutto sono stata la prima a usare nell'arrangiamento i violini nella ritmica. Infatti. Non c'era ancora, nessuno l'aveva fatto in Italia, non solo in America, ma in Italia nessuno. Ecco, poi infatti fu anche diffuso molto all'estero questo disco. Sì. Grande successo in tutta Europa, perché lo ricantarono i Boney M. Uh-huh. Come dimenticarli, Boney M? 8 milioni di dischi. Ah, però. Senti, ma tu dov'è che hai cominciato? Hai cominciato anche tu nei concorsi estivi che si fanno, questi concorsi per talenti, nuove cantanti? Non era proprio estivo, era il diciamo che il concorso era forse legato all'estate, però io ho cominciato... a Catania in inverno, in un teatro dove c'era una selezione per il festival di Ariccia. Sì. Poi nella realtà io ad Ariccia non sono mai andata. Perché? Perché non c'è stato bisogno, perché sono arrivata prima nella selezione di Catania, dopodiché alcuni mesi dopo cominciai a cantare in giro così per la Sicilia e mi notò Mike Bongiorno, che mi fece fare il mio primo pubblico discografico. E di lì poi hai cominciato e non si è fermata più. Sì, quindi non ci fu neanche il bisogno di andare a Riccione, perché cominciai subito a lavorare sul disco proprio. Marcella, Dopo... Non avevo ancora 16 anni, avevo 15 anni. Come Elisa al karaoke, anche tu. Sì, ero piccola, piccola. Senti, io ti ringrazio tanto per aver partecipato, ma mi devi togliere una curiosità. Dimmi. Ecco, in Rio de Janeiro, quando dici portandosi dentro il telefono Kedrin, cosa vuol dire? È peggio della Divina Commedia, non riesco a capirla quella frase. Che tu vai in vacanza, però ancora per testa c'hai il telefono, tutte le cose del lavoro, dell'ufficio, tutte le rotture di scatole, quindi vai in vacanza ancora con il suo telefono che ti suona in testa. Ma oggi con i cellulari è la stessa cosa, quindi abbiamo risolto. Vedi? Anticipato i tempi anche lì. Hai anticipato i tempi, mi hai risolto un grande problema. Grazie Marcello. Però ti volevo dire Dimmi. Un'altra cosa, sì. Che c'è stata un'altra grande canzone che ho lanciato nell'estate dell'83. Ed era? Era nell'aria è stata lanciata in estate. Sì, sì, certo, però capisci, non parlava di temi estivi, di spiagge, come fanno molte canzoni. No, di tutt'altre cose, non stiamo lì adesso a... Infatti, non possiamo non approfondire. Non stiamo lì a parlare di quello che voleva dire Mogol. Ecco, è un'ora in cui ci sono anche i bambini. Grazie, Marcella. Grazie a te, ciao. E buon'estate. Anche a te, buon'estate. Mi raccomando, grazie. Canta col tuo super impianto karaoke. Perde la S. E da sconosciuta diventa conosciuta e vince la prima edizione del Festival di Rizza, la festa degli sconosciuti, la ragazzina di Torino, Rita Favone! Neanche a farlo apposta, Marcella ci aveva parlato del Festival degli Sconosciuti di Ariccia, avete sentito questo documento storico, Teddy Reno che annuncia la vittoria di Rita Pavone. Ma mi dicono, perché i nostri ascoltatori sono molto attenti, mi dicono che oggi forse i falò sulla spiaggia non si fanno neanche più, perché pare sia vietato, sarà un'altra legge antiterrorismo, non si sa, sempre colpa di Osama, non si sa. Sentiamo cosa da dire Maurizio, che a quanto pare magari è un esperto di falò. Maurizio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Sì, più che esperto di falò, sono esperto di gite, di istruzione di scuole. Insegno in una scuola superiore qui in provincia di Cuneo, Savigliano, e ti assicuro che oltre agli iPad, ai pod che si portano dietro i ragazzi, sì, portano dietro anche le chitarre e si canta moltissimo sul pullman. Moltissimo. Quindi ci sono ancora le chitarre? Ci sono ancora, è incredibile ma vero, si cantano ancora le canzoni dei miei tempi. Io ho 50 anni, si cantano moltissimo Battisti, si canta moltissimo Baglioni, tant'è che si chiede sempre ai ragazzi, ma perché cantate? Perché niente da fare, sono le più orecchiabili, sono sì, le ma, più dolci. Ma voglio dire, ma prova a cantare una canzone che so di Shakira, di Beyoncé, è impossibile, sono dei pezzettini, abbaiano, non cantano, come fai a cantare una canzone così? Ma tu suoni la chitarra? Io suono la chitarra, difatti la porto sempre con me in vita. Hai suonato anche intorno ai falò? Sì, tantissimo, quando si andava nelle colonie montane qui delle nostre parrocchie. Allora se erano parrocchie non posso farti la domanda che volevo farti, perché il mio dubbio è questo. A spiaggia si andava, è vero che non si fa più il falò adesso, una volta ti ricordi non ci lasciavano dormire, c'è stato un momento che non ci si lasciava più dormire nessuno in spiaggia, e quindi si stava magari fino alle 2, alle 3, alle 4, poi arrivavano le guardie. E con la chitarra si suonava, intorno ai falò, allora si facevano in spiaggia, anche in spiaggia. Sì, ma quando uno suonava, siccome io so, mi dicono che in spiaggia la notte il rumore delle onde desti qualche risveglio ormonale, insomma, pare. E quello che suona la chitarra, che deve sempre suonare, cosa faceva? Niente, praticamente. Fino alla fine era quello che teneva il moccolo, come si dice, era quello che faceva nascere il sentimento, l'amore, e faceva nascere le coppiette. Però tutto sommato era, poi c'era anche spazio per lui, perché comunque era sempre quello che era visto come l'artista, il musicista, insomma. Non poverino, è vero, no? Sì, come quello che non deve bere perché poi deve guidare al ritorno. Sì, sì, uguale. Si nasce così, si nasce sfortunato. Maurizio, grazie tante. Grazie mille, mi raccomando. Buona trasmissione a tutti. Grazie, buona suonata, perché sarà lì con la chitarra. Altra ascoltatrice, un'ascoltatrice, Olivia. Olivia. Eccomi. Pronto, da dove chiami, Olivia? Da Bologna. Anche tu suoni la chitarra? No, io non so suonare niente, non so neanche cantare. Scusa, perché hai chiamato? Fa piacere però, voglio dire. Ho chiamato perché la settimana scorsa mi sono esibita in una rassegna canora per dilettanti allo sbaraglio bolognese che si chiama Cotechino d'Oro. Come si chiama? Cotechino d'Oro. Cotechino d'Oro? Esatto, è una... Ma voi a Bologna ogni tanto pensate ad altro oltre che al cibo, perché siete sempre molto così focalizzati e monotematici. Ma in questo Cotechino d'Oro cosa fa? Prende spunto dallo Zecchino d'Oro? Ma sì, secondo me più che altro fa, è un po' un festival di Sanremo pecoreccio e organizzato da un gruppo di ragazzi che dal 1989 ogni 3 anni mettono in piedi questo spettacolo per persone che c'è sicuramente qualche perla di persone che sa cantare, ma la maggior parte vanno a stonare. Tu eri tra queste? Beh, ovviamente. Ma cosa hai cantato? Io ho cantato America di Gianna Nannini. Ah, un pezzo semplice. Da Lady Gaga. Vestita da Lady Gaga, hai cantato America di Gianna Nannini? Sì, per sviare un po', per creare un po' di scompiglio sul palco. Ma soprattutto tra il pubblico più che sul palco, scusa, ti avranno preso a cotechini, cosa è successo? No, lì in realtà più si stona e più si comunque conta un po' anche la presenza scenica, per cui direi. Accompagnata dai miei amici che hanno una band che si chiamano Last Perros, loro suonano proprio seriamente, volevano partecipare e volevano una cantante appunto che non sapesse cantare. E quindi la scelta è caduta su di te. Più. Senti, prima di chiudere però un pezzettino di America me lo fai? Io posso citare solo una frase che poi cantavamo tutti, perché è una canzone, non so se la conoscete, ma pare che sia anche un inno all'autoerotismo femminile. Sì, ci sono i bambini. Ma perché mi avete preso? Per una trasmissione notturna. Avanti, canta questo pezzettino. Dai. La frase più bella della canzone che dice: ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, che io poi ho stonato. Ma non l'hai cantata, la voglio sentire cantata. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due. Ho detto cantata, non ululata. Vabbè. E questo io ho fatto proprio questo. Ah, hai fatto così. Senti, Olivia, grazie tante. Un consiglio, grazie. Non cantare più. Infatti, è finita. Ora ho deciso di crescere. Bravo, date alla pittura, grazie. Benissimo. Ecco, se anche voi avete avuto delle brutte esperienze come questa di Olivia da Bologna, sempre 800 24 00 24, che canzoni avete cantato davanti a chi? Magari per dichiararvi avete cantato e siete stati anche accettati. Non si sa. C'è un'altra donna, Rosalba. Pronto, sì, Rosalba? Sì, pronto, pronto. Buonasera. Salve, Rosalba, da Latina. Da Latina. Non dirmi che canti le canzoni di Tiziano Ferro. No, di Tiziano Ferro, anche se io non le canto perché... No, io poi non canto perché sono proprio stonata. Ah, e allora perché mi chiami? Quindi, no, io ho chiamato perché appunto mi è rimasto impresso. Cosa? Quando io andavo a scuola, quindi tantissimi anni fa, a una recita. Sì? E in un teatro qui, sai, quelle che si fanno, insomma, a fine scuola, scolastica. Sì. Che a me mi hanno detto, tu vieni ma non cantare. Ah. Perché sei suonata peggio nella campana, quindi vieni perché pareva brutto che mi lasciassero a casa. Però non dovevi cantare. Però non dovevo cantare, ho fatto soltanto la figura. Io ti capisco, perché mi succedeva questo quando facevano le squadre per la pallavolo a scuola. Ecco, tu vieni in palestra ma non giocare, io stavo lì seduto, figurati, cosa potevo fare? È uguale. Quindi sei stonata e hai avuto questa brutta esperienza. Infatti sai, la mia canzone preferita, un po' per l'età, un po' perché è canzone stonata di Gianni Morandi. Perché quindi ti sei sentita proprio... Quella, capito? E poi niente, poi volevo dire che siccome ho lavorato anche in un'azienda farmaceutica dove facevamo ogni anno dei viaggi, sì, quindi facevamo anche ore e ore di pullman... Cantavate. E lì cantavamo di tutto, ma al tempo mio, che posso dire, adesso sono un po', voglio dire, sono vecchie, no? Ma tipo Celentano, Azzurro, Mina, Morandi, Battisti. Guarda, neanche a farlo apposta, voglio dedicarti la hit parade di oggi, che è del 1969 e che infatti, guarda, sarà tutta dedicata alle canzoni italiane, ascoltala, grazie. Numero 10, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Lucio Battisti. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Numero 9, Davanti agli occhi miei, New Trolls. Numero 8, Ti voglio tanto bene, Rossano Attolico. Numero 7, L'altalena, Orietta Berti. Numero 6, Pensiero d'amore, Mal. Accetto questo regalo, se il mio amore non vuoi, questo almeno vorrai. Numero 5, Pensando a te, Albano. Numero 4, Rose rosse, Massimo Ranieri. Numero 3, Non credere, Mina. Numero 2, Storia d'amore, Adriano Celentano. Numero 1, Lisa dagli occhi blu, Mario Tessuto. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Saranno passati 40 e passa anni dal 69, non so cosa, 42 con i numeri, mi perdo, eh. Non sarà più successo che in classifica c'erano tutti i pezzi cantati in italiano, quelli che si potevano cantare perché si capivano le parole. Provate a cantare che so Michael Jackson, è impossibile, non si può. E poi per di più bisogna anche specificare una cosa, sono tutte canzoni che ricordiamo ancora oggi. Ci ricordiamo perfettamente di tutto questo. Intanto, fuori, nel mondo, succedeva di tutto. C'erano le rivolte a Parigi, in Germania, dove era nato tutto. C'erano le rivolte che cominciavano anche in Italia, ma la Hit Parade era ancora lì, con le belle canzoni melodiche italiane. E vabbè, come vedete, la musica va da una parte, il mondo va dall'altra. Meglio dello champagne, limite stevigne, ci fanno la cuccagna dal tempo di. Rieccoci qui con un classico, penso, da gita, naturalmente gita Li Castelli, perché poi le canzoni, esistono anche le canzoni nazionali, tipo quella di Battisti, la canzone del sole, abbiamo sentito prima, ma poi ci sono anche quelle regionali, nessuno naturalmente in Valtellina canterà la canzone di Nando Fiorini, però penso che in tante zone del centro sì, e poi l'abbiamo vista, sentita, cantata, ricantata in tanti film, ma il mio dubbio al momento è, ma è vero che non si possono più accendere i falò sulla spiaggia? Ma sulla spiaggia c'è l'acqua e c'è la sabbia, che sono due prodotti ignifughi. Cioè, se non può succedere niente, né incendi, né non si sa. Se avete notizie precise e aggiornate sullo stato dei falò in spiaggia, chiamatemi e ditemelo. Intanto c'è Edoardo da Verona. Buongiorno Edoardo. Buongiorno a tutti. Ciao, ma tu canti? No, io non canto assolutamente. Ma, scusa, no, ma perché nessuno canta? Io ho cantato quando ero piccolino, che avevo circa 10 anni. Sì. Ed eravamo praticamente una scolaresca un po' mista in Liberia, a Monrovia, eravamo dai 5 anni ai 14 anni tutti nella stessa classe e abbiamo cantato praticamente per la festa di compleanno del Presidente della Repubblica della Monrovia, che a quel tempo dovrebbe essere stato Tubman, se ricordo bene, e praticamente ogni ambasciata portava un gruppo a cantare per festeggiare. Noi abbiamo cantato, ricordo, Ad Este Fidelis, tipica canzone estiva, certo, tipica canzone estiva, Ad Este Fidelis, esatto. Sono... abbiamo avuto la nostra Sandy Dovescio perché eravamo tutti piccoletti, quindi abbiamo fatto la nostra bella figura, insomma. Sono sconvolto, nel gruppo mi perdevo, insomma, certo. No, sono sconvolto, io pensavo appunto mi chiamassero, ho cantato vicino a Don Luigi, abbiamo fatto la canzone dei due Liocorni. No, addirittura hai cantato davanti al presidente della Liberia. Sì, esatto. Sei davanti al presidente della Repubblica della Liberia, è stata un'esperienza, anche se avevo 10 anni, certo, ma... la ricordo benissimo. Lo metti anche sui curriculum questo, quando cerchi lavoro, ho cantato davanti al presidente della Liberia. Beh, non è che abbia fatto una bella fine col presidente lì, quindi non so poi dopo quanto lo prende in considerazione il curriculum. Tu non specificare il nome, metti soltanto cantato davanti al presidente. Esatto. Dopo prima di te, che anno era? Che anno era, te lo ricordi? Era nel 70-71, quel periodo lì, perché io sono del 61, avevo 10 anni più o meno, 9-10 anni, quindi 70-71 quel periodo. Perfetto, quindi prima di te soltanto Marilyn Monroe quando cantò Buon compleanno presidente a Kennedy. Grazie, grazie Edoardo. Grazie, buona trasmissione di nuovo, grazie. Grazie, sì, buona trasmissione perché stiamo cantando e sto sentendo storie, io voglio sentirvi cantare anche ogni tanto, non mi chiamate e dite no, io non canto, non canto più, sono io quello che non canta. Renato da Milano, pronto? Ciao, pronto? Ciao. Buonasera a tutti. Ciao, ma tu canti? Io canto, oh, sì. Finalmente, ecco, compongo, insomma, ho sempre cantato. Ecco, ma in spiaggia? In spiaggia sì, come no. Io non vado al mare se non ho la chitarra. E se a volte mi presento senza chitarra e qualcuno reclama anche. Ah, ma invece quando arrivi con la chitarra non vanno via, restano lì ad ascoltarti? No, io riesco a raggruppare i lidi a fianco, proprio sulla mia destra, sulla sinistra, e creare una buona comitiva, insomma. Ma tu hai notizie sulla possibilità, sulla licità dell'accensione dei falò in spiaggia o no? Come, scusa? No, dico, si possono accendere i falò? Non lo sa. Sì, sì, sì, sì. No, è che non ti sento bene. Ah, no, spengo il motore, spengo il motore. Sarà su un aereo, dove sarà? Ecco. Ci sei? No, no, sono qua. No, diciamo, ma si può accendere il falò in spiaggia ancora o è vietato? Qualcuno lo fa, non si potrebbe comunque. Ah, ecco, non si potrebbe. Ti volevo dire, dimmi. Io ho anche un primato. Quale? Che ultimamente scrivevo mentre viaggiavo in autostrada, no? Così non era pesante il viaggio. Sì. E mi è capitato, durante la trasmissione di Nicoletta Garbone, sì, che conosci benissimo, sì, e di intervenire, e quando ha saputo che io avevo appena finito di scrivere una canzone, me l'ha fatta accennare, per cui sono passati pochi minuti che l'ho fatta ascoltare, proprio un accenno a cappella, chiaramente, a tutti gli ascoltatori di Radio 24. E ah, quindi credo sia un primato. E no? Ciò nonostante, sì, ma dico, ciò nonostante hanno tenuto il tuo numero di telefono, non sei di tra quelli cancellati, ti fanno ancora intervenire. Come, scusa? No, no, niente, dicevo, ciò nonostante ti fanno ancora cantare. Stavolta però avevi spento il motore. Certo, spento il motore, sì. Va bene, grazie. Prego. Grazie. Non vuoi sentire niente? No, no, ti ringrazio se non mi fai sentire niente. Ciao, grazie a te. Non c'è soltanto la musica leggera che si canta in compagnia. Noi abbiamo in fondo un grande patrimonio operistico e magari anche voi fate come quei quattro, che poi divennero cinque, grandi amici che quando erano in auto cantavano così. Io ti battezzo nel nome di Padre, di Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei pezzi tuoi, con un detto sol tu puoi, le mie pene almeno una volta nella vita l'avrete sicuramente fatto il pop appero di Amici Miei, perché non si può non farlo, fa parte del curriculum attraverso cui deve passare chiunque sia nato dopo il 1975. Ma io, tra le tante cose che non ho fatto in vita mia, è stata anche il cantare al karaoke. Io non ho mai cantato a un karaoke e ne vado fiero, lo scrivo nei curriculum. Mi dicono però che la canzone più cantata nei karaoke è questa qui. Mi chiedo come facciano a cantarla, è una canzone anche abbastanza difficile, impegnativa vocalmente, soltanto George Michael ci riesce, e poi ha un testo anche complesso con parole non usuali, però evidentemente all'estero la canteranno. Danilo. Pronto Danilo? Ciao. Ciao, da Brescia. Io più o meno mi sono imbattuto. In cosa? In una prova come con George Michael, ero a Brooklyn e mi sono messo a cantare una canzone. Eri a Brooklyn? Ero a Brooklyn e ho cantato. Mr. Jones. Ah, pensavo fosse il gerundio. Mr. Jones, e com'è andata? È andata malissimo, perché al tempo l'inglese ancora non lo sapevo, praticamente zero. Ed ero sul palco con un mio amico, eravamo un pochettino ubriachetti perché era l'ultima sera a New York. E cazzo, niente. Pardon. No, figurati, poi è una citazione greca. Nel ritornello, no, perché la figuraccia è stata veramente davanti a 300 persone. Soltanto. Nel ritornello faceva yeah, io sono scoppiato a ridere in un modo allucinante, ho fatto una figuraccia che ricorderò a vita. Vi hanno dato il foglio di via oppure vi hanno tenuto ancora lì? No, però penso di aver ricevuto tante di quelle risate in faccia che le ricorderò per sempre. E vabbè, poi dicono che abbiamo questa immagine all'estero. Ti ringraziamo comunque, tutta la nazione ti ringrazia, Danilo. Grazie tante. Grazie. Intanto pare che siano arrivate notizie precise sul falò. Enrico. Sì. Ah, dai. Buonasera. Ciao, da Salerno. Ciao, sì. Niente, io il falò purtroppo non lo fanno più fare, non capisco perché. Ma si faceva perché? Per tenere lontano le zanzare, prima di tutto, no? Perché in spiaggia di sera, sì, era pazzesco. Io l'ultimo che ho fatto l'ho fatto a Palma di Maiorca. Ah? Ma nessuno va a Gatteo Mare, tutti a Palma di Maiorca, a New York, a Brooklyn. No, ma nell'80, adesso vabbè, io sono in provincia di Salerno, sto Sono al mare, verso Pestum, quelle zone lì, no? Sì. E qui lo fanno ancora, abusivamente, ma lo fanno ancora, è ancora bello. Ma c'è il motivo per cui non si può fare? C'è un motivo per cui non si può? Guarda, sinceramente non so dirlo, so che comunque è vietato, perché sono abbastanza rigidi, vigili, la forestale, via dicendo. Ah, vabbè. Forse quindi... perché la pineta, non so, può fare incendio o roba del genere. Vabbè, quindi abbiamo saputo. Perché io ho fatto il militare a Livorno e mi ricordo l'Ardenza, giù di lì, facevamo di quei falò bellissimi. E cantavate? Cantavate però? Sì, che sì, cosa? Sì. Io comunque canto. Ti spiego, io faccio il cuoco, no? Sì. E, quando cucini canti? No, proprio canto in sala, canto, io sono un po' giocarellone. Noi avevamo un ristorante molto grande, cioè lavoravamo in un ristorante molto grande dove c'era un professore di mandolino e con la chitarra. Ah. È nato con la chitarra. Allora usciva lo chef in sala e cantava. Sì, cantavamo. Sì, dopo in privato, dammi l'indirizzo del ristorante così lo evito, perché sai, quando sento cantare in sala poi non riesco più a mangiare. Grazie, no, Enrico. Era un agriturismo. Ah, no, comunque, senti, ma hai mai cantato il più classico dei classici, cioè il Nessun Dorma della Turandot? Ma tanto non serve la voce. Adesso te lo faccio sentire nella sua versione più classica. Ascolta, pur sempre Pavarotti, anche se un Pavarotti un po' tardivo, Gigi Giangiava un po' sul finale, non era certo quello del 73 nella versione con la Sutherland diretta da Meta e altre cose poco estive. Molti si cimentano con questo pezzo, ma è assolutamente improbabile. Voi vedete anche nei bar gente che canta questa cosa in metropolitana e dici, vabbè, Puccini si sta rivoltando nella tomba, è una cosa terrificante. Orlando, dimmi. No, devi dirmi tu. Allora, niente, io sono brasiliano, quindi la musica per noi è tutto, no? Sì. E ho una storia buffissima, che è quella che prima di venire in Italia, io sono di Rio. Sì. E quindi prima di venire in Italia mi sono imbattuto in un karaoke a cantare Volare, cioè una vergogna unica. Perché una vergogna? Hai cantato male? Perché ovviamente avevo ancora il problema della lingua, non capiva bene l'italiano, era assieme a un gruppone di amici italiani e quant'altro che mi hanno stimolato a cantare. Perché così, no? L'immigrato pensa che parla l'altra lingua. E invece non è andata così. Ma no, ma l'importante è la voce, non preoccuparti. Comunque, se non sai l'italiano, ci sono sempre dei corsi. È stato buffissimo, sì. Ma dopo però mi hai spinto ad imparare un po' meglio. Oggi sono appena, capisco, un po' meglio, no? Ah, beh, insomma, ma guarda, molto carino. Parli benissimo l'italiano. Conosco uno che dice sempre Brooklyn e pensa di sapere l'inglese. Pensa un po'. Senti, infatti, perché noi pensiamo sempre di sapere l'altra lingua, ma comunque è bellissimo, abbiamo tanta cosa in comune tra la cultura brasiliana e quella italiana per quanto riguarda la musica, no? Ah, beh, sicuramente, dopo vado ad approfondire, perché qui stiamo già finendo, purtroppo il tempo è volato, abbiamo parlato di canzoni, domani parleremo di luoghi comuni nelle notizie sul caldo, sarà molto divertente, avrete già le anticipazioni sulla pagina Facebook, La Bella Estate, di appunto la pagina di Facebook, vi aspetto domani alle 14, ciao. Alle 16, che giornata, ciao!